buongiorno. Ciao Pierluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attimo Nainggolan, sceglie Dzeko che è in posizione regolare, Dzeko tutto solo, Dzeko a rete, rete, proprio lui si sblocca finalmente, il gigante è buono, Dzeko 2-0. Si accentra Bellarabi col tocco per Hernandez, regolare, prova, rete, rete, incredibile, incredibile, Ciccio Arito colpisce, 2-2, rimonta completa. Ancora nel mucchio De Rossi, Leno, Salah, incredibile, c'è il calcio di rigore, calcio di rigore, anche espulsione credo. Pjanic immobile, aspetta il fischio, arriva il fischio, si muove, Pjanic, destro secco, rete, rete, rete, la sbaglia Pjanic, un Zilura raso a terra, 3-2, un Zilura raso a terra. Siamo sempre in vantaggio, poi cala un po' la concentrazione, diciamo. Però sta cosa dobbiamo migliorarla. Come ho detto, forse il primo tempo poteva essere, il risultato poteva essere più alto, però l'importante abbiamo ottenuto quello che volevamo, sono i 3 punti fondamentali per noi. Vedi, per Luigi Pardo c'è un problema. Qual è? C'è una cosa incredibile, incredibile, che i primi 6 minuti del secondo tempo della Roma siamo andati in onda, in chiaro, su Canale 5, a proposito, omaggi al professor Piccinini. Sì. Siamo andati in onda, in chiaro, su Canale 5, in tutto il paese, in fascia protetta, non sarebbe bastato il bollino rosso, eh? È stata pornografia calcistica quella. È stata una partita bellissima dal punto di vista dell'intensità, tra l'altro ha fatto un ascolto pazzesco, quindi complimenti a chi ha giocato e anche a chi l'ha raccontata, Sandro e Fabio Gennaro. Ma questi sono dettagli, quello che conta è che è stata una partita dal punto di vista dell'entertainment, come dicono sì, gli americani o gli inglesi, cioè del divertimento puro, è stata una partita bellissima, perché fino all'ultimo minuto è stata da infarto. E la Roma conferma tutte le sue qualità e tutti i suoi limiti, sì. Però intanto fa una vittoria che secondo me è fondamentale, ne parlavamo ieri. Sì, certo, si correva a quest'ora, è corso secondo me denaro, è una partita fondamentale della settimana. Adesso c'è il derby che è importantissimo, per carità, perché sappiamo che Roma, il derby in qualsiasi città è fondamentale per l'umore, per la felicità dei tifosi, per tutte cose romantiche. Beh, anche per gli equilibri della classifica, credo che la partita, eh, fosse la partita più importante della settimana per la Roma, che in qualche modo l'ha portata a casa. Attenzione, il TAS, notizia di questo momento, rigetta la richiesta di sospensiva di Valentino Rossi, che quindi partirà da Valencia dall'ultima posizione. È uscita in questo momento la sentenza del TAS, c'erano 3 strade percorribili, lo ricordiamo, un accoglimento della sentenza tout court, una sospensiva, quindi se il TAS si fosse riservato di decidere in seguito, la sentenza sarebbe stata sospesa e Valentino Rossi avrebbe potuto gareggiare in condizioni normali, mentre il TAS ha rigettato la richiesta e quindi, come previsto e come da pronostico, Valentino Rossi partirà ultimo domenica nel duello all'OK Corral di Valencia. 800 24 00 24, giusto darla subito, poi torniamo naturalmente a parlarne. Era già previsto che ne avremmo parlato comunque nella, dopo il GR delle 15. Intanto, continuando sulla Roma, però Pierluigi, quei primi 6 minuti, con l'aggravante che si rientrava dall'intervallo, quindi che hanno fatto nell'intervallo? Caviale champagne, perché non si può approcciare al secondo tempo così, onestamente. Sì, sì, ma infatti, ma io, guarda, dal punto di vista tattico il problema della Roma secondo me è la difficoltà nella gestione del possesso palla. Cioè una grande squadra è una grande squadra perché riesce ad accelerare, perché riesce anche a frenare e a gestire. Nella prima di queste due cose la Roma è già una grande squadra, nella seconda no, e se non lo diventa secondo me difficilmente vincerà, sì. Questa è la mia sensazione. Sì, poi ci sono altri problemi, diciamo così, ambientali, che sono stati sottolineati con forza ieri da Garcia e da Sabatini. Sentiamo Garcia. E sui momenti di difficoltà abbiamo bisogno dell'aiuto del pubblico. Questa sera mi aspettavo ovviamente un incoraggiamento, non so se si dice così, ma si dice molto di più di uno stadio. Quando noi andiamo a Leverkusen, che la squadra perde 2-4 in casa e che il pubblico si rivolta e che si è rivolta anche la squadra, ci aiuta tanto, e su questa cosa spero, e lo spero tanto, che lo stadio diventerà l'inferno nel futuro. Per il momento è lontano da questa cosa. Rapporti tesi dunque con il pubblico romanista anche per Sabatini. Chiunque voglia contestare i calciatori della Roma può farlo, ma penso che sia una cosa minimo di cattivo gusto, perché non sono contestabili calciatori come Dzeko, Salah e lo stesso Szczęsny. Magari può essere bocciata qualche prestazione, ma bocciarli nella loro caratura, nelle loro qualità generali, mi sembra veramente eccessivo. Ma dove deriva questo malumore, Pierluigi? Ma deriva dal fatto, no, Dzeko, io ieri sono andato allo stadio, Dzeko è stato sostenuto a gran voce dai tifosi. In questo momento manca completamente il tifo inteso come tifo organizzato. Sappiamo che c'è la polemica per la divisione della curva. Io fra l'altro sono anche, sul principio sono d'accordo con i tifosi, nel senso che credo che quel provvedimento lì non risolve i problemi. Poi, premesso che ognuno nella vita fa quello che gli pare, capisco anche il punto di vista dei dirigenti della Roma, perché comunque quelle sono due tifoserie, Roma e Lazio, che fanno come tante altre, ma fanno la differenza. E ieri ci sono stati dei momenti in cui praticamente non c'era tifo, oppure si sentivano quelli del Leverkusen, che è una cosa abbastanza inusuale, soprattutto per una tifoseria calda come quella della Roma. Quindi che la Roma avrebbe bisogno in questo momento di un tifo più caldo non c'è dubbio, e questo in qualche modo racconta anche l'importanza che hanno i tifosi, che hanno le curve, che tante volte vengono viste da fuori soltanto come un'associazione a delinquere. Io sai che non sono d'accordo, nel senso che io sono per la responsabilità personale delle persone, appunto, responsabilità penale, per cui che all'interno di una curva, così come all'interno di una tribuna, ci possa essere uno che si comporta male, che è un delinquente, è indiscutibile e deve essere punito. Ma comunque tu dici la curva, la curva della Roma in sostanza non ce l'ha in questo momento con la squadra, ma è un clima di malumore generato da questi provvedimenti. Cioè, tutto sereno, secondo te, nei rapporti tra la curva e la squadra? Io ti dico, stiamo per vivere probabilmente un derby senza curve, quindi è abbastanza surreale. Mi limito a osservare che è un danno per la squadra, sicuramente. Cioè, ieri in una partita di quel tipo, con la spinta che la curva sud è capace di dare quando è, diciamo, a pieno regime, chiaramente hai un uomo in più in campo, al di fuori di ogni retorica. Quindi no, ecco, è così. Capisco che esista, poi ognuno nella vita fa ovviamente quello che gli pare. Qui la propria... Sabatini ha sottolineato la disapprovazione nei confronti di alcuni giocatori in particolare. Dzeko, tu mi dici, è stato applaudito a lungo. Szczęsny è al centro del mirino della tifoseria. Poi ci sono, ovviamente, come stai spiegando, altre componenti. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo a discutere. 800 24 00 24, vi ricordo, il TAS rigetta la sospensiva di Valentino Rossi, quindi conferma il provvedimento. Valentino domenica partirà a Valencia dall'ultima posizione e basta adesso, grazie. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Poi dopo, come sempre capita alla Roma, le sinapsi vanno in cortocircuito, regaliamo qualcosina, però devo dire che siamo stati molto molto bravi, perché prende due gol in 3-4 minuti con il déjà vu dell'andata, poi sarebbe stato difficile per tutti. Invece la Roma si è comportata da squadra, e la Roma è amata in maniera incommensurabile, però questo amore è molto silenzioso ultimamente, un po' per le questioni legate alla curva, e poi forse anche allo stadio non c'è più quella voglia di sostenerla, la squadra, fino in fondo. Questo di nuovo Sabatini sui due temi che abbiamo cercato di isolare, diciamo così, io e Pardo nella prima parte, cioè una Roma che io ripeto, magari una posizione un po' forte, però l'approccio al secondo tempo è stato quasi pornografico, e comincio a dubitare di qualche capacità di Garcia, e poi questo rapporto incrinato con il pubblico, complici tante questioni, tanti temi, tanti argomenti, non tutti relativi alla squadra. Direttore Paolo Liguori, buongiorno. Buongiorno. Partiamo da... Sulla prima questione sono in netto disaccordo con te e buona parte della stampa italiana. Benissimo. Ogni partita ha la sua storia. Ieri ho visto anch'io la partita. È chiaro che quando si è andati su 2-2 poi c'è stata una forte tensione, un forte nervosismo, anche aumentato da quella strana atmosfera che si respira ormai all'Olimpico con la Roma in casa. Però siccome ogni partita ha la sua storia, se il giorno prima tutti hanno detto che poi si arriva al pareggio di Lichtsteiner perché c'è il grande cuore della Juve, bisogna anche dire che partendo da quello svantaggio e con tre uomini che si stavano man mano infortunando c'è stato il grande cuore della Roma. Bisogna dire che nel doppio confronto col Bayern, e bisogna dirlo, la Roma ha praticamente stracciato la squadra che è considerata al terzo posto in Germania. Benissimo. Dopo il Bayern e dopo il Bayern. Sarebbe ancora più doloroso, direttore. E bisogna dire anche, cosa che poi ieri è sparito perfino nel commento di Sabatini, che il primo dei due gol sul 2-2 è un gol irregolare. Cioè tu pigli un gol irregolare, vai palla sul fuori, ti innervosi, palla fuori, palla fuori, no? E fa una bella differenza, insomma, per me in una partita all'episodio. E comunque poi viene il 2-2, vedo il nervosismo, la grande fatica della Roma di riprendere la partita. Direttore, il problema è che secondo me quel 2-2 non ci deve arrivare. Dopo un primo tempo comunque, che potevi chiudere 4-0. Queste cose si dicono sempre dopo, potevi chiudere 4-0. Ma il secondo gol l'ha preso in contropiede a Roma. Sì, però anche una cosa sul 4-0. Cioè, secondo me dei due peccati è molto più grave quello del secondo tempo, al netto dell'episodio, sì. Ragione, direttore, quello di pallone da fuori. Però la cosa più grave secondo me è il blackout a inizio ripresa. Esatto. Perché il primo tempo è chiaro che potevi fare 4 gol, però alla fine la Roma ha avuto 4 palle gol nel primo tempo. Sì, pensare sì. Che tu faccia 4 su 4. Insomma. No, però ti dava l'impressione che quella difesa la facesse a pezzi, ma quando voleva. Quello che dico, rientri dall'intervallo dove dovresti anche aver aggiustato le cose e rientri con quell'approccio. È questo questa è la domanda che mi faccio. Però vedi, tra l'altro ieri Leverkusen ha fatto un regalo alla Roma. Feller aveva parlato di pareggio, ci serve il pareggio. Si è sceso in campo giocando nella metà campo avversario, hanno preso il primo gol in contropiede dopo 5 sì. minuti, quindi veramente era un regalo. La Roma al primo tempo è vero, ne poteva fare di più, ma io non mi sento di biasimare la fase offensiva della Roma. Cioè, no, ma ci mancherebbe altro, Pierluigi. Non sto dicendo questo. L'approccio della ripresa, direttore, stavi dicendo? Stavo dicendo che voi parlate tutte e due come i più antichi tifosi romanisti che conosco, come se lo foste. Cioè loro partono che tu hai già vinto. Se tu pareggi o se tu fai fatica a vincere, sei uno scemo, hai fatto sicuramente qualche errore. Allora, il fatto che si potesse andare 4-0, ma queste sono cose che io non sento più da quando avevo 15 anni. La Roma i gol non l'ha sbagliati per sue carenze. La Roma i gol l'hanno sbagliati gli stessi due che li hanno fatti, procurati e costruiti, cioè i due migliori in campo, indubitabilmente i due leoni del 2-0, cioè Dzeko e Salah, sì. E nella mia concezione del calcio addirittura Dzeko sopra Salah ieri sera, tanto per rispondere anche a secondo me anche secondo poi, me perché è un giocatore straordinario e lo voglio anche ripetere per radio, così qualcuno polemizza e lo sente, non è un centravanti nell'accezione in cui si dice finalizzatore bomber, è un attaccante che si muove molto, l'assist a Salah lo da lui, sembrava una palla di Totti quella ripresa. Ma è uno che si fa un mazzo così, ma ricordate l'assist del primo gol a Salah da metà campo. Quello lo fa Totti e Dzeko, per fortuna, e nessun altro. Pardo, che dici? Allora, no, sono d'accordissimo. Credo che Dzeko non farà 20 gol quest'anno, ma se ne frega, nel senso che sono d'accordo col direttore. È un giocatore, è un po' per le sue caratteristiche, e un po' anche perché è capitato in una squadra dove i suoi compagni di reparto, i due esterni offensivi, non vanno a fare i cross, vanno per inserirsi e per tirare. Legittimamente, perché sono le loro caratteristiche, hanno molto più il dribbling del lavoro. Ma questa è la Roma ha questa caratteristica. Tu non hai Ryan Giggs che era il più grande crossatore, certo, al mondo. Questi puntano la porta ma perché la Roma è così. È per questo che fai fatica ad inserire Dzeko, che è un super giocatore. Che giocano della punta centrale. Nella Roma tu hai la punta centrale che gioca per gli inserimenti degli attaccanti esterni. Sì. Non è il primo e unico caso della storia, è un caso abbastanza limite, ma succede. Ma alla fine io sono d'accordissimo, Dzeko per me ha fatto ieri una partita eccezionale, come dice Vicini. Per me sembrava più vicino al Rooney, capito? Che ha un centravanti finalizzatore. Si è messo là. Ecco, quello che dice Pierluigi è verissimo. poi Salah è talmente uno che punta la porta quando può, quando deve fare solo un semplice passaggio e due volte su due e si casina un po', ha sbagliato, ha sbagliato l'ultimo passaggio a campo aperto dove doveva servire proprio. La geometria non è la sua materia preferita. Senti, sposiamo un attimo il focus sull'altro argomento che mi interessa molto. Vigilia del derby, curve probabilmente chiuse, tifoseria romanista che mugugna, Sabatini e Garcia che sottolineano questo aspetto. Poi c'è il peso del derby, e su questo sono in disaccordo con Pardo, che dice che la partita era quella di ieri sera. Quella di ieri sera era la corsa all'oro, perché così devi interpretare la Champions, la Roma. Secondo me il derby sarà una partita fondamentale dal punto di vista degli equilibri del campionato, non solo per un punto, zero punti, tre punti, ma per le conseguenze che può portare. Allora, ti dico prima una cosa che è più grave, secondo me, che l'hai sottolineata, sono d'accordo, ma forse ti dico una cosa che non è stata ancora discussa. Non solo ieri sera mancavano i tifosi dalla curva, ma l'iniziativa dei tifosi è molto radicata e molto pericolosa, ed è una questione di cui si dovrebbe occupare seriamente tutto il calcio. In sostanza nasce dalla dichiarazione e la volontà di alcuni tifosi ultra della Lazio e della Roma di non essere controllati in alcun modo. Io non so se noi possiamo sopportare questo, che uno dica esplicitamente noi non vogliamo essere controllati, questo non lo so. So un'altra cosa però, che questo gruppo organizzato, e qui non faccio differenza, della Roma e della Lazio, si influenza a vicenda e influenza tutto lo stadio, non so se per un potere di carisma o anche soltanto per un'intimidazione. Qua uso una parola grossa, ma quelli che entrano in curva e che non vogliono restare fuori non tifano, me ne sarete resi conto, come se qualcuno li osservasse e che se tifano ne pagheranno poi in futuro le conseguenze. Questa è una cosa gravissima, cioè noi abbiamo una curva, quella della Roma, che parte con questa iniziativa dopo che lo propone la curva della Lazio, e questo già a me fa impressione. Come quel derby che fermarono insieme sulla notizia, lo ricordiamo perché benissimo. C'erano legami sotterranei evidenti, però, creati altrove. Poi, e questo l'ha stabilito anche la procura, voglio dire, poi c'è una curva che in parte entra ma non tifa e influenza tutto lo stadio, perché lo stadio è sbigottito dal fatto che la curva tifa poco. Risultato: la Roma non è sostenuta all'Olimpico dai suoi tifosi in generale, invece di diventare un inferno che può trasferirsi al nuovo stadio diventa una passeggiata divieto di tifo per ragioni una cosa, che chi ha comprato un abbonamento in curva e in questo momento decide di non andarci esercita un diritto sacrosanto, libero, ha oltretutto speso dei soldi, quindi semmai se ha un danno ce l'ha sulla propria pelle, sulle proprie tasche, ed esercita sempre una forma di coerenza nei confronti di un'idea. Poi, secondo me, quindi io non ci vedo nulla di violento. Perché tu sei sicuro? Ma la ragione però conta, Piero. Tu sei sicurissimo che sia un diritto esercitato liberamente? Io sono abbastanza che vanno solo in trasferta e che non vanno a vedere le partite in casa, comunque si oppongono a questo principio, che è stato adottato dalla curva dello stadio di Roma. Sì, però io sono abbastanza grande, abbastanza smaliziato per dirti che quando fu interrotto quel derby, e fu interrotto diciamo anche con l'appoggio dei due capitani, su una notizia falsa che era morto un bambino fuori dallo stadio, nessuno era libero in quello stadio, né il questore né i giocatori. Però, allora quel potere là non è stato mai più rimesso in regola, lo dico a voce bassissima perché queste cose qui meglio avere delle scaramanzie. Mi sembra che quella fase lì sia stata superata, cioè mi sembra che oggi mediamente l'esperienza allo stadio sia molto più serena rispetto a qualche anno fa. Quella sera lì io ero allo stadio, fu una pagina sicuramente molto triste. Devo dire che anche in tribuna stampa non c'era una sola persona che avrebbe messo la mano sul fuoco sul fatto che la notizia era falsa, nonostante i messaggi dello speaker, quindi c'era un clima che era completamente diverso. Oggi mi sembra che io credo che in un paese normale si debba stabilire se questo tipo di provvedimento può essere utile o può non essere utile, e in qualche modo almeno controllare gli spettatori nel loro posto. Ma sì, ma dai, ma adesso sinceramente controllare gli spettatori nel loro posto è il presupposto per costruire uno stadio nuovo e qualsiasi stadio di proprietà. Senza questa garanzia nessuno investe su uno stadio, ma in tribuna sei più che controllato, c'è un biglietto numerato, è in curva che pretendono di muoversi da una parte all'altra. Ma guarda che questa cosa è già successa molti anni fa a San Siro, se lo ricordano. quando sugli anelli, sul secondo anello, si girava liberamente. Certo. Io ero un ragazzo, ma si girava liberamente. E c'era la regolare libro. Carica di una tifoseria nei confronti dell'altra, era uno spettacolo domenicale questo. Ora, bisogna sapere che nello stadio succedono, io non lo voglio dire in questa trasmissione, poi nessuno c'ha il coraggio, devo essere io quello che lo dico, ma voi sapete che nello stadio e soprattutto nella curva l'attività del tifo è una delle attività, ce ne sono altre, adesso non sta a me stabilire quali, però bisogna saperlo, bisogna vederlo, è per queste altre che non si vuole la certezza del posto e la certezza dell'identificazione, mica perché hanno paura che si scopre chi tira un cartoccetto di carta in campo, ma perché ci sono molte altre attività che avvengono nelle curve, diciamo, soprattutto sì, io parlo di Roma, che conosco Roma la domenica. In tutte le curve, se voi omettete questo fatto e vi dimenticate che incidenti come quelli che sono successi per Ciro Esposito, che poi hanno avuto tanti altri riflessi, basta, non parlo più perché sennò insomma queste sono cose da ordine pubblico e sono cose da rischi, insomma, però sì, io queste cose, sono uno che sta per strada per il mio mestiere e le conosco a puntino. Sì. Io ho la sensazione aspetta, dobbiamo salutare Paolo Liguori e ringraziarlo. Vi saluto io, vi ringrazio. Grazie. Sì, ciao. Dobbiamo andare con la borsa, che siamo alle 14.31 e poi riprendiamo discorso. Abbiamo già ascoltatori 800240024. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Si ricomincia. Convocati. Allora, ricordo la notizia che abbiamo dato in apertura, che è arrivata appunto quando stavamo per aprire il programma. Il TAS ha rigettato, il Tribunale dell'Arbitrato Sportivo di Losanna ha rigettato la richiesta di sospensiva di Valentino Rossi e quindi tutto confermato domenica a Valencia. Valentino partirà dall'ultimo posto dello schieramento. Marco, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. No, volevo intervenire a proposito di quello che dicevate l'altro giorno, che avevo un po' stuzzicato, cioè sul fatto, dato una cifra dal punto di vista statistico, che l'Inter, chiudendo il campionato con in proiezione 24 gol subiti, sarebbe sicura dello scudetto. E allora, convinto come tutti, penso che in Italia sia necessario avere per forza la miglior difesa per vincere il campionato, sono andato a vedermi un po' le classifiche finali delle 83 sì, campionati italiani di Serie A. Da quello che insomma si evince guardando le cifre, si capisce che la difesa sì è una condizione necessaria, ma non è sufficiente a vincere il campionato, perché negli 83 campionati italiani, quelli a girone unico ovviamente intendo, da 29-30, sì, solo in 43 casi ha vinto la squadra che aveva la miglior difesa. Quindi dicendo che l'Inter aveva la miglior difesa, diciamo che ha il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Sì, questo approccio statistico certamente non fa una grinza. Non è sufficiente, ovvio, la miglior difesa. A me viene in mente anche una grande squadra, cioè il Milan di Capello, che aveva altri interpreti. Non voglio paragonare l'una all'altra perché non avrebbe senso. Però vinse quei campionati come sta facendo l'Inter, con l'1-0. È chiaro che essere solidi dietro aiuta anche a costruire qualcosa di buono davanti. Non so se, per esempio, alla Roma possa far più paura, possa mettere più timore la completezza del Napoli o la solidità ringhiante dell'Inter, Pierluigi. Io dico Napoli, lo penso ancora, però potrei anche sbagliarmi. Io ribadisco il concetto, spesso a Sanremo c'è il premio della critica, no? Anche a Venezia sì, ci sono tutti i vari festival, ci sono riconoscimenti della critica che premiano l'estetica o che premiano alcuni aspetti, diciamo, di genialità e di originalità. Quindi il fatto che l'Inter non giochi un calcio troppo divertente, che mi pare scontato, lo dice lo stesso Mancini e non è certamente un cruccio, può portare delle volte a sottovalutarla. Errore gravissimo, perché l'Inter fin qui ha mostrato una grande forza. Quindi bisogna, dopo 11 giornate la classifica ha un suo peso e l'Inter merita infiniti applausi. Detto questo, secondo me ci sono squadre che in prospettiva nelle 38 giornate potrebbero avere qualcosa di più. È vero su tutto il Napoli, sì. E poi vedo la Roma, però l'Inter è molto interessante, così come è molto interessante giocare. L'ascoltatore di Treviso ha fatto un approccio statistico, cioè ha detto: ho guardato tutti i campionati, solo nella metà dei casi l'ha vinto la squadra con la miglior difesa, però questo è un approccio parziale, perché se hai una difesa con la Brodo, come adesso quella della Roma, che è l'unica partita in cui non ha preso gol, è stato Frosinone-Roma a settembre, finita 0-2, ci vuole una via di mezzo, magari non la vince quella con la miglior difesa, però quella con la seconda o con la terza, cioè, non vai tanto lontano. Infatti, ma a me la squadra che sembra più in crescita nel periodo è sempre il Napoli, al di là del pareggio di Genova, perché il Napoli ha quella classifica lì, ma avendo completamente toppato le prime tre giornate, quindi sì, è chiaro. Il trend al netto di quell'inizio, di quella falsa partenza, mi sembra il migliore di tutte, però vedremo ovviamente. Posso dire una cosa in 30 secondi sul discorso che facevo prima di Cuori? Io certo. Posso anche capire che in curva, come anche in tribuna, ci possano essere delle attività non del tutto lecite, ma si vanno a colpire quelle. Cioè, io quello che trovo, a me sembra che in Italia, al di là del fatto che alcuni passi avanti sono stati fatti, perché sono io il primo a dire che mi sembra che ci sia una tendenza al miglioramento complessivo del clima negli stadi, questo ci fa particolarmente piacere e speriamo che continui, quindi bisogna anche sottolineare queste cose qui, però mi sembra che tutta una serie di provvedimenti, dalla tessera del tifoso alle famose chiusure degli stadi, alle squalifiche addirittura per dei fatti avvenuti in trasferta, che proprio ledono il più normale diritto. Perché coi biglietti nominativi, se io non sono andato in trasferta, in quella trasferta qualcuno ha esposto uno striscione o ha cantato una cosa che non doveva cantare, ma che c'entro io che posso dimostrare che a quella partita non c'ero? Perché devo essere da abbonato, perché mi deve essere negato il diritto di andare a una partita che ho pagato? Ecco, questo genere di situazioni, come anche questo provvedimento di chiusura della curva, mi sembrano tutti palliativi e mi sembrano un girare attorno ai problemi. Sì, ma poi è improprio, però è improprio dire chiusura della curva, cioè è diserzione della curva decisa congiuntamente dalle tifoserie di Roma e Lazio. Questa è la cosa, questa è la reazione al provvedimento. Il provvedimento nasce dall'idea di militarizzare e di segmentare la curva per un discorso che anche per dirsi in tribuna, di quello dice Paolo, se uno vuol spostarsi si sposta, ma com'è normale? Perché voglio dire, non è che cambiare posto per forza sia un reato contro il paese, non è un reato, è una piccolissima cosa se ti sposti di una fila, non diventiamo uno stato di polizia, però per cui fanno ridere. A me piacerebbe che appunto lo Stato fosse molto più duro ed efficiente quando succedono cose gravi, quindi che vada a colpire le persone, che vada a colpire i responsabili, perché i responsabili devono rispondere personalmente di quello che fanno. Sì. E quando invece non si riesce ad avere questa efficacia contro chi commette qualcosa, si fanno questi provvedimenti, che sono provvedimenti che alla fine colpiscono un po' tutti, per una specie di responsabilità oggettiva che alla fine ne scontenta 100 perché non riesce a punire i 5 o i 10 che realmente può non essere il migliore dei provvedimenti possibili, ma mi sembra che nasca da un'esigenza di controllo, quindi di prevenzione, sì, più che dire di repressione. Poi io non ho l'idea di quanto ai tifosi e dei motivi per cui ai tifosi possa dar fastidio un divisorio in curva presidiato non dalla polizia ma dagli steward. Insomma, la ragione mi sembra più piccola rispetto a quanto hanno deciso congiuntamente i tifoserie di Roma e Lazio. Comunque ne discutiamo ancora, perché l'argomento è interessante. Paolo Caserta, buongiorno. Buongiorno ragazzi, grazie per avermi convocato. E io due domande velocissime su Napoli, chiaramente. Allora, Sarri fa giocare bene il Napoli, nessun dubbio, però c'è un processo di santificazione in atto, secondo me. Quanto credete pesi l'eredità di Benitez, nel senso come rosa che ha trovato Sarri? Che chiaramente il Napoli gioca bene. Cioè, quanto c'è di, lei chiede quanto c'è di Benitez nel miracolo Sarri, quanto, del Napoli di quest'anno? Sì. Bene. Esatto, Pierluigi. Le rispondiamo, Pierluigi ha già anticipato, per me pochissimo. Non voglio fare l'anti-benitiziano, però insomma Sarri secondo me ha dimostrato, poi vedremo, ovviamente è atteso da mille verifiche, la stagione è lunghissima e vedremo quando andrà a finire, però se dovessimo valutare oggi mi sembra che Sarri in poche settimane sia riuscito a cambiare, a mettere un volto completamente diverso, un manico completamente diverso su una squadra che è essenzialmente la stessa di Benitez, con una grande novità che è Reina, perché va riconosciuto che il Napoli l'anno scorso ha perso tanti leader difensivo totale. Sì, ma proprio l'anno scorso il Napoli ha perso tanti punti fra Rafa e Andugar, veramente, quindi fate voi il conto, 7, 8, 10 di punti li ha persi. Quest'anno invece ha trovato un portiere vero, quindi questo va riconosciuto a Benitez. Qui arrivano pochissimi tiri in porta, peraltro. Mi sembra per il resto che Sarri stia allenando questa squadra molto meglio di come l'allenava Benitez l'anno scorso, proprio senza sì e senza ma. Sì, poi non c'è discussione, la rosa è buona, ma la rosa ce l'aveva anche Benitez. Cioè, quest'anno non è che c'è stata la rivoluzione in campo. Assolutamente, non è arrivato Maradona, ma è arrivato Allan, che è un giocatore estremamente importante. Giorginho c'era anche l'anno scorso, tutti gli altri c'erano anche l'anno scorso. È arrivato Allan, è arrivato Isai, ma la rosa è quella. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Torniamo con Raffaele da Roma, tra poco andiamo in Spagna. Spagna per parlare di Benzema. Per parlare di Rafa Benitez, Real Madrid, eccetera. Poi torneremo in Spagna per parlare della notizia di adesso, di oggi, del momento, con il TAS che ha rigettato la sospensiva di Valentino Rossi e quindi partirà ultimo. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Io ho chiamato di getto dopo aver sentito il direttore Liguori. Mi ha anticipato Pardo prima, poc'anzi, di cui diciamo sono completamente d'accordo sulla dinamica che ha fatto, perché i tifosi che non vanno allo stadio, e comunque è un provvedimento assurdo soltanto fatto sullo stadio di Roma. Gli altri stadi, lei va in curva normalmente? Io andavo in curva, sono stato per tanti anni in curva, andavo in curva sud e dove c'erano gli ultras di Roma. Ormai ho una certa età, insomma, 55 anni, non frequento più la curva, conosco un po' le dinamiche anche se sono cambiate ultimamente. Però loro contestano il fatto, innanzitutto, che i provvedimenti sono generalizzati, non sono personali. Hanno diviso la curva togliendo dei posti già assegnati, di cui il direttore generale della Roma, da un file audio, lui stesso ha ammesso che sapeva dell'esistenza di questa cosa già dall'anno scorso, fatta dal prefetto di Roma. E tu metti in vendita gli abbonamenti per quei posti. Cioè, questo è un argomento su cui di totale discussione, perché non puoi impedirmi, non puoi togliermi il mio posto per dei lavori, diciamo, di ristrutturazione della curva. Questo non c'è dubbio ed è un aspetto di cui discutere, ma non mi sembra l'aspetto cruciale che ha portato a questo sciopero delle curve che verrà inscenato domenica. Comunque voglio dirti, lo sciopero, io ribadisco che al di là di tutto, se il tifoso che è abbonato non vuole andare allo stadio, esercita il suo diritto di piena libertà. Cioè non si può demonizzare il tifoso della curva e poi incazzarsi con lui se non ci vuole andare o se non tifa. Io sono il primo a dirti, ieri ero allo stadio, che sicuramente la Roma, così come la Lazio in questo momento, come qualsiasi squadra, avrebbe bisogno. Ci avrebbe sicuramente un vantaggio nell'avere una curva compatta che trasforma, come diceva Liguori, in un inferno ovviamente sportivo lo stadio. Però questa è una decisione collettiva, Pier. C'è una decisione che viene presa a livello. Sarebbe molto comodo, ma se uno alla fine, per un discorso di coerenza, perché non è d'accordo con una decisione che è stata presa in maniera assolutamente non violenta, esercita il diritto di non andare allo stadio, soprattutto dopo aver pagato un abbonamento, e che vogliamo fare? Vogliamo prendercela con lui? Vogliamo obbligarlo a bastonare? Questo è perfettamente logico. Questo è perfettamente logico. Fa pensare il fatto che la decisione sia stata presa da qualcuno, da poche persone, immagino il capi ultra, per tutti quanti, quindi vietato tifare e meglio non andare. Pier, andiamo un attimo di cosa, ho 4 minuti, però volevo parlare con te, con Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio. Come va? Com'è questa voce mesta? Sei in guardina con Benzema. Chi è che dorme? Chi è che dorme? No, è colpa tua, perché ieri sera lì allo spogliatoio devo aver preso un po' freddo, quindi ho questa voce un po' così cavernosa. Per forza, hai invitato le signorine, hai messo i nostri il tridente con Lorena e Lorena, meraviglioso, sì. È stato meraviglioso. Filippo Maria Ricci che mi veniva da dire adescato, ma non è la parola giusta. Poi attenzione, che se dobbiamo parlare di Benzema, appunto, pia- Milano con le parole. Comunque Lorena e Lorena ieri sera grandi protagonisti. No, è uscito però, è uscito. Sì, sappiamo che è uscito, ma sappiamo anche che avrebbe ammesso di aver fatto parte di questa porcata nei confronti del suo compagno di squadra. Però poi il suo avvocato ha negato, però il suo avvocato nega e non c'è grande chiarezza. Quindi adesso è libero, però non liberissimo, diciamo. È libero ma non liberissimo. Esatto, ti piace, no? Così in attesa del giudizio, vediamo. L'avvocato ha smentito tutto, però prima la voce veniva dalla France Press, l'agenzia francese. E quindi non gli ultimi in questo senso a livello giornalistico, e vediamo cosa succede, perché insomma adesso dovrebbe tornare. Intanto due cose: non è stato convocato neanche Valbuena, è stato convocato da Deschamps per le partite nazionali, e poi però la cosa che Valbuena ha messo sul suo profilo Facebook una foto con Benzema, quindi insomma questo mi sembra un gesto abbastanza indicativo, insomma, se vorrebbe forse scagionare il compagno, se vuole scagionarlo che lo scagioni non mettendo una foto ma facendo un po' più di chiarezza. Certo, esatto, quello che mi viene da dire, ieri mi sono preso del razzista da Yelpo, perché ho detto che certe volte nel novero degli sportivi trovi spesso un gran numero di figli di mignotta che fanno queste cose. Quindi, e si vendono le partite. Faccio una considerazione un tanto al pezzo, però queste cose qui, insomma, e vendi le partite e vendi video con chiedi i soldi per vendere per non pubblicare il video del tuo compagno di squadra che scopa con sua moglie, mi sembrano delle cose veramente allucinanti. Io vedo, per quattro soldi, uno sprovveduto o uno insomma un po', diciamo, borderline nella vita, diciamo, quotidiana, ma non lo vedo come un criminale. È il tipo appunto che gli piace correre in macchina, che magari va senza patente, fa queste minchiate, criminale possiamo chiamarla fesseria, però lì c'è il metodo Cassano, Cassano ha raccontato la autobiografia che quando aveva 16 anni lui già guidava, dice il modo migliore per non farsi ritirare la patente è non avercela, cioè, non ce l'aveva. Grandissimo, esatto. Quindi io gliela potevo ritirare. Sì, però esatto, Pier, questa vicenda è può essere, possiamo dire che è una scemenza, è una sciocchezza, però è una sciocchezza che se comprovata potrebbe valere 7 anni di galera, tanto per dire. Infatti, è ovvio. Sì, adesso aspettiamo, bisogna capire bene cosa è successo. Insomma, io sinceramente non ce lo vedo Benzema facendo ricatti di questo tipo, non lo so. No, ma io ce lo vedo a fare una sciocchezza, magari nella sua mente questa poteva essere interpretata come... Beh, adesso dalla ragazzata ne è spuntata un'altra, sulle Point. Sostengono che sia coinvolto anche in una rete di narcotraffico. Adesso mi sembra esagerato. Adesso è anche in qualche omicidio. Mafia capitale. Esatto, sì. Vediamo se era amico di Bucci. Però insomma che il ragazzo sia incline alla stupideria, o come dicono a Milano alla stupidera, è evidente che sia anche implicato in cose così, mi sembra eccessivo, ma lo scopriremo vivendo. Intanto vi saluto, ragazzi, ciao Filippo e ciao Pierluigi, sentiamo domani alle 2, fermiamo per il GR, a dopo. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arieccice. Tutti convocati. Si propone Birindelli, smarcato, palla al piede, 20 metri in avanti, parte il cross di Birindelli, per Zalajeta, rete! La Juventus in vantaggio con Zalajeta! Camoranesi cross, Trezeguet, la palla è lì, Zalajeta, Marcelo! Zalajeta! Premiato! E se lo merita lui! chiusura di Gargano che ha proposto per Lavezzi in velocità, lo aspetta Giulio Cesar che rischia perché il pallone si è fermato. Salaseta, Marcelo, Salaseta, 1-0. Omaggio al Panteron, ma indimenticato dai tifosi juventini, Marcelone Salaseta, che ha annunciato la fine della sua lunga, più o meno luminosa carriera, insomma non esageriamo, e ha detto che sta pensando al futuro e la sua idea, il suo sogno è quello di fare il fruttivendolo, attività perfettamente legale, ovviamente, meravigliosa e diversa da quella che farà magari in un prossimo futuro Karim Benzema. Staremo a vedere anche questo? Eccezionale! Dunque ragazzi, tra poco parliamo di questa sentenza del TAS che ha rigettato la richiesta di Valentino Rossi, che partirà ultimo dunque a Valencia, tutto confermato, tutto ufficiale, niente può cambiare o essere cambiato. Tra poco, cioè alle 16, cominceranno le conferenze stampa per la prima volta in camera stagna dei piloti, uno per volta. Partirà Valentino Rossi alle 16, a mezz'ora di distanza Lorenzo e poi Marquez e poi Pedrosa. Non si guarderanno, non si parleranno, non si vedranno. Pazzesco questo. Carlo Roma. Eccoci. Dica. Buongiorno. Buongiorno. No, volevo tornare un attimo sulla conversazione interessante che c'è stata prima tra Liguori e Pardo, sì, a proposito, sì, dello stato di diritto degli stati, dove notoriamente viene, come dire, si appanna in qualche modo, dove i pubblici poteri sembrano non poter intervenire in qualche modo. Sì, c'è un territorio dello Stato italiano, sì, piccolo, sì, ma che è quello, certo, delle, sono che è quello... Altri, per, sì, sono le, no, strade, ma... gli autostrade, sì. Ma anche quello circolare per le strade d'Italia non è facile. No, ma no, va bene, però quel piccolo territorio non vorrebbe essere assoggettato a leggi e regolamenti. Esattamente, però diceva giustamente Pierluigi Pardo che in effetti è inutile penalizzare il mondo intero quando invece è possibile indagare, no? Stare lì dice, vabbè, se ci sono altri traffici, come giustamente ricordava Liguori, che non sono solo quelli, cioè l'attività del tifo è solo marginale rispetto ad altre possibili attività poco commendevoli, diciamo. Sappiamo così che queste cose succedono domenicalmente ovunque in quasi tutte le importanti curve italiane, no? Esattamente. Allora la domanda che volevo rivolgere però a parte è la seguente: se lui dice giustamente non è il caso di penalizzare tutto il mondo perché qualche mascalzone delinquente fa questo o fa quello, bisogna trovare però, cioè, che si indaghi sulle cose che brutte e, sì, illecite che si fanno. Sì. Benissimo. A questo punto io dico una cosa: l'unico modo per indagare sarebbe quello di mettere, di far entrare degli infiltrati. No, devi fare dei tifosi, dei poliziotti, carabinieri in borghese che, cioè, fingono di fare quelle cose e che però stanno lì a guardare. Ma non uno, non due, diversi. Ma io questo, che io credo che questo già accada. Beh, però se accade evidentemente non è sufficiente, comunque non sufficiente, lo fanno con un'adeguata verifica. Non è sufficiente e è molto... No, ma la domanda che volevo fare rigoloso a Pardo... Ma Pardo, che, Pardo adesso non c'è, quindi... Vabbè, ma insomma... Sì, la domanda... È questa, cioè dico, ma è sicuro che le tifoserie che adesso si incavolano perché si prendono queste misure restrittive sbagliate effettivamente nei loro confronti non si incavolerebbero altrettanto se sapessero che lì dice no, non vogliamo neanche i poliziotti in borghese? D'altra parte la polizia indivisa, ma secondo lei vorrebbero, ammetterebbero i poliziotti in borghese? Cioè storicamente la curva è un territorio in cui la polizia non può entrare, non ha diritto di cittadinanza se non con la forza. È questo che vogliono gli ultra, vogliono totale controllo del loro territorio, totale controllo dell'ufficio, è questo che vogliono gli ultra. Che poi questa vicenda sia stata gestita, stiamo scoprendo, in maniera maldestra, è evidente, però c'è un'intervista ad esempio sul Corriere dello Sport del prefetto di Roma Gabrielli che ha detto, guardate, noi quel provvedimento era noto, noi dopo l'ultima partita della stagione abbiamo comunicato, adesso interveniamo e facciamo quello che dobbiamo fare, cioè creiamo questo divisorio, giusto o sbagliato, creiamo questo divisorio e lì in mezzo ci saranno gli steward. Da parte di Roma e Lazio, ma soprattutto, dice il prefetto, da parte della Roma c'è stata molta resistenza e suppone lui, tutti aspettavano che arrivassero le magiche telefonate dall'alto per dire ma no, ritardiamo, facciamo dopo, faremo dopo. Quindi gli abbonamenti sono stati serenamente venduti. Invece il prefetto ha dato dritto per la sua strada. No, vi abbiamo detto che questi lavori li facciamo e li abbiamo fatti. E adesso viene fuori questo interessante casino. Alfonso da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e grazie. Io invece volevo intervenire sul nuovo mondiale. Ora, non sto a sindacare sul giudizio, insomma, di come è andato a finire. Comunque, secondo me il mondiale sarà comunque falsato da questa cosa. Sì. Anche perché o che i piloti si mettono d'accordo, come hanno detto, e fanno passare Valentino e fanno recuperare. Questo tenderei a escluderlo. In qualsiasi modo è falsato. Però da vecchio tifoso, 53 anni, sono sempre stato molto appassionato sia di moto che di Formula 1, mi sembra si sia un po' perso lo spirito vero, che è quello dei piloti. Cioè, una volta, io capisco che rischiamo la vita, però una volta, insomma, questo era uno sport fatto del buon vecchio manico, come si diceva, sì, di qualche sportellata, sì, di passione, di adrenalina. E adesso mi sembra che siamo arrivati veramente all'eccesso. Anche in Formula 1 più di 3 spostamenti non si possono fare, e quello non si può fare. Cioè, insomma, mi sembra che si sia abbastanza perso di vista quella che è l'agonismo della corsa, della competizione, fermo restando la sicurezza. Ma non credo. Credo che questo sia il limite superiore del comportamento dei piloti. Nessuno vorrebbe vedere dei gran premi asettici senza battaglia vera. In questo caso però siamo di fronte a qualcosa di profondamente diverso e di profondamente unico nella storia del moto mondiale. Sentite lo spot che Lorenzo aveva girato per il Gran Premio di Valencia. Hoy no estoy aquí para hablar de mis triunfos ni de mis derrotas. En esta ocasión me gustaría compartir un mensaje con toda la afición. Pueden separarnos los colores. Los hay que buscan emociones fuertes. Otros, en cambio, disfrutar del paisaje. Fanáticos del barro o del brillo. Aquellos que pasan el testigo generación tras generación. Exploradores de los confines de la tierra. Los que caminan solos prefieren la manada. Al parecer, hay cosas que nos diferencian. Pero bajo el casco, todos somos uno. Spot molto efficace, totalmente inutile, perché i biglietti per Valencia sono completamente introvabili, tutti esauriti da tempo, e bagarinaggio è proibito, vengono venduti a 3-4 mila euro al momento, in compagnia di una penna, di una bic, non so, di qualcosa di simile. Tu paghi la BIC 4.000 euro e in omaggio ti danno il biglietto. Mi hanno raccontato che adesso funziona così, in questi giorni, in queste ore. Ciao Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Senti, abbiamo appreso dunque alle 2.10, sì, mentre eravamo già in onda, di questa decisione del TAS. Si parte come stabilito. Le ragioni di Valentino non sono state ascoltate, quindi non c'è una, quantomeno la sospensiva, che avrebbe permesso di congelare la situazione in attesa di un verdetto. Il TAS ha detto non se ne parla. No, tutti quanti avremmo voluto il contrario, però io dico anche che per questo ne sarebbe uscito questo sport molto malandato, perché comunque una regola ci deve essere e deve essere seguita. Poi è vero che tutti avremmo voluto vederli ad armi pari lì dentro. La situazione comunque è incredibile, Carlo, perché mi dicono che adesso alle 3:30 Carmelo Espeleta riunirà tutti i piloti, ci sarà anche Vincenzo Ippolito della federazione, non ci sarà alcun manager e gli farà la romanzina, cioè sarà senso unico, non ci sarà contraddittorio. Yamaha è presidiata da Bodyguard, assolutamente. I team principal, le persone che gestiscono le squadre sportive, stanno vivendo i 10 giorni da incubo della loro vita, si aspettano di tutto, tutto può succedere. Addirittura, Carlo, ho sentito arrivare a dire non mi stupirei se Valentino dichiarasse il suo ritiro ufficiale in questa occasione, sia che andasse bene notizia che andasse male, propensa, ci sarebbe una cosa epocale. Quello che dico io è che ci sarà un prima e un dopo, cioè sì, questo fatto è un po' come il Dieselgate per le auto, voglio dire, arrivare a dire l'11 settembre perché quello è ben più grave, però attenzione perché ci sarà un prima e un dopo. È scappata di mano la situazione, Lorenzo che va da solo a fare delle cose, c'è stato un comunicato poco tempo fa di un grosso sponsor di Lorenzo, orologiaio italiano, non dico il nome, ma che grosso, che lo ha abbandonato. Questo, questo fa capire, assolutamente. Roberto, oggi ho letto il mio amico Cristiano Gatti sul Corriere della Sera. Il moto mondiale ha perso la sua età spensierata, ha perso l'innocenza, niente sarà più come era prima. L'immagine tratteggia, le solite immagini che abbiamo raccontato mille volte, no? Nei paddock si mangia, sia tutti fratelli, ed è uno sport libero di spirito. Nulla sarà più così e gli sponsor scappano. E questo lasciano la barca che affonda. Sì, mi hanno detto che Valentino è abbastanza stanco, provato, lo si vede sul viso, cioè è consapevole di questa situazione, insomma c'è veramente una tensione, la tagli col coltello nell'aria, è una situazione irreale, non abbiamo mai vissuto una cosa del genere. La moto, le due ruote, non ho mai avuto una ribalta così, io veramente sento parlare persone che non hanno mai guardato un Gran Premio magari, sì, però dico la loro. Tutti, questo fa veramente ridere, perché bisognerebbe ascoltare invece chi è del mestiere, capire i codici non scritti che ci sono in questo mestiere, e quindi, però vabbè, è meglio così da un lato, perché anche noi delle moto apriamo la gazzetta dal verso giusto, però è un peccato pensare al dopo, e io mi auguro che non sia domani, dopodomani, il dopo, non sia lunedì, perché sarebbe un bruttissimo congedo da parte del nostro unico, e quindi è una voce che si è sentita, non voglio assolutamente dire. Però, ma sono successe anche tante cose strane, Roberto, che mi hanno colpito. La prima, io mi aspettavo che lungo queste due settimane il clima da Far West si potesse addolcire un pochino verso la Spagna, e invece no, non è andata così, anzi è diventato ancora più aspro. Ho notato reazioni diverse, mi sembra che sia un po' cambiato anche il modo di sentire comune verso Valentino Rossi. Mi sembra un clima un po' più indulgente nei confronti di Valentino Rossi. Non voglio arrivare a ricordare che addirittura il papà di Lorenzo ha preso le sue difese. Cico Lorenzo ha detto... Bisogna capire. C'è tra Lorenzo e padre e figlio. Loro non si sono parlati per degli anni, c'è un grande conflitto, è una persona molto particolare. Insomma, quindi conoscere bene. Però è vero che c'è molta, molta indulgenza. Addirittura sul País, principale quotidiano spagnolo, si è parlato di patriottismo miope. Si è sottolineato come la Dorna si alimenti del denaro che Valentino Rossi porta, è la gallina dalle uova d'oro del motociclismo. Beh, ma è così, è inutile, è semplicemente la verità. Assolutamente, lui serve a tutti noi, al nostro sport, quindi e comunque è incredibile come si siano create queste opposte fazioni, ma niente che straparla poi, e il web che è una cassa di risonanza per questo delirio di giudizi, di affermazioni. Devo dire che è un po' anche il rovescio della medaglia di questo sport, che in questo momento sta vivendo un momento veramente felice, quindi questo tifo quasi calcistico, si dice noi delle moto siamo un po' spaventati perché c'è un pubblico che non siamo abituati ad avere, è il prezzo da pagare della notorietà e di essere, ripeto, sulle prime pagine. Io ho sentito persone parlare di questo fatto che mai mi sarei immaginato, ma persone importanti di altri settori, cioè è diventato veramente l'argomento del giorno, Marquez, Valentino, cioè un po' giù dalla torre, su dalla torre, cioè da che parte stai, sì. Ma in momenti e situazioni, in interviste, in contesti che dici no, non è possibile. Vabbè, no, poi c'è addirittura chi scrive, ad esempio, sciocchezze del tipo: i tifosi del motociclismo sono quelli con la moto, quelli di Rossi quelli con il cappellino. È una stronzata non ma da poco. Cosa vuol dire? Non ha senso. Speriamo che rimanga ancora più a lungo possibile, che mantenga quello che ha detto, che rimarrà ancora finché si diverte. Fino a quella gara si divertiva molto, adesso un po' meno. Comunque possiamo solo vedere. Io mi ricordo delle finali veramente di calcio che hanno lo stesso, hanno catalizzato lo stesso. Robby, questa è l'effetto sull'Italia della finale dei mondiali, di un'Italia-Spagna finale dei mondiali. Cioè il sentimento comune è questo. Assolutamente. assolutamente, assolutamente. Chissà, Carlo, io non farei mai dire mai, aspetta la bandiera a scacchi, ricordiamo tutti nel 2006 Valentino con Haidem, e l'americano vinse il suo titolo inaspettatamente, quindi vediamo, chissà che il destino gli giri in modo positivo. Valentino qua non ha mai raccolto qua Valencia, però questa potrebbe essere la sua volta. Cioè, tutto, ripeto, è possibile. Tecnicamente il circuito è difficile perché è un toboga, è piccolo, difficile sorpassare, facili contatti, è difficile fare giochi di squadra, ci sono tanti spagnoli in mezzo che non possono far vedere platealmente, che gli aprono la strada, e però anche sarebbe critico ostacolargliela, insomma è tutto da vedere, ma mi ripeto, possiamo solo assistere. Partendo ultimo, l'unico vantaggio che ha sulla carta è che Valentino può concentrarsi sul passo di gara e non sulla prestazione da singolo giro, è ben poca cosa questa. Però lui si può concentrare sul suo passo di gara, che fa sempre fatica a trovare, perché poi in gara deve prendere, andare, camminare. Però deve aprirsi il varco, certo, altrimenti è dura. Senti, ma sempre guardando la corsa in controluce, in prospettiva soprattutto, è vero quello che leggo oggi, ha detto Pernat, Valentino potrebbe essere nono dopo un giro? Sì, può accadere, non è follia, assolutamente. Succedere nelle gare di moto, può succedere. Penso a un tappo davanti, un contatto, una mischia, lui ha il canale corridoio giusto, da dietro riesce a girare e salta un grappolo di piloti. Ripeto, è da vedere, quindi sì, non è persa assolutamente la gara, è ancora aperta. Anche perché io penso che i due della Honda correranno per vincerla. Io mi immagino Marquez primo, Pedrosa secondo e dietro chissà. Questo è quello che immagino io. Staremo a vedere. Intanto la vediamo domenica. Tutta Italia la vedrà domenica, ma non solo in Italia verrà vista questa gara domenica, credo la gara più seguita di tutti i tempi. Roberto, grazie, a prestissimo. Ci vediamo prestissimo. Ciao Carlo. Ciao Roberto. Saluto tutti. Nicola, provincia di Messina, e poi chiudiamo. Abbiamo un minuto. Dica. Buongiorno signor Genta, grazie per la convocazione. Grazie a te. Per quanto riguarda la notizia che abbiamo appreso da poco noi tifosi di Valentino, abbiamo solo una piccola speranza, diciamo, attaccarci a quello che può fare questo fenomeno, anche se le caratteristiche del circuito non lasciano speranze. Non aiutano. No, ma speranze. Speranza è l'ultima a morire. Non aiutano. Sarà un gran premio surreale, perché così è. Sarà un duello per il titolo surreale. E questo è quello che ci aspetta domenica, però in questo momento nessuno è in grado, nemmeno i più tecnici come Roberto Ungaro, che è stato pilota, ha commentato 1000 edizioni del Moto Mondiale per la televisione, anche lui dice tutto può succedere, ma in questo momento l'esito è totalmente imprevedibile. Una certezza, Valentino, avendo la certezza di partire ultimo, potrà concentrarsi fin dal primo giorno, cioè domani, sul passo di gara, e in pratica correrà contro se stesso, cercando di scavalcare il maggior numero di piloti possibile e di arrivare là davanti il prima possibile. E sarà una gran battaglia, ragazzi. Una gran battaglia. Vabbè, ci fermiamo qui. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ciao a tutti. Bellissimo spettacolo di sport. Bravi.